Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Buongiorno e benvenuti, quarta puntata di Mangia come parli. Buongiorno chef, come andiamo? Buongiorno caro Pier, molto bene, grazie dei messaggi, sono tantissimi. Vi ricordo i messaggi WhatsApp per l'SS Oldani al 349-238-6666, la segreteria telefonica vecchia ma sempre orgogliosa e nobile, lo 02-46-52-41-84, la nostra pagina Facebook, c'è De Luca con Ferronato dall'altra parte del vetro, li ringraziamo. Oggi mi ha fatto un regalo, perché parliamo di una delle cose che mi fa impazzire di più. Finalmente, al mondo. Ce l'abbiamo fatta, insistevi, visto che addirittura decidi tu i temi, qui mi devo preoccupare. Fantastico. Stoccafisso, baccalà e tutto il resto, è tutto ciò che in qualche modo si lega a questo straordinario alimento. Ma c'è subito il professor Luca Bizzarri. Buongiorno, come va? Buongiorno cari, buongiorno, molto bene, grazie, molto bene. Che si mangia a cena, Bellandi? Che si mangia? Allora, il baccalà a me piace molto ed è proprio sintomo di vecchiaia, cioè quando nella tua vita comincia a piacerti il baccalà vuol dire che stai diventando vecchio, bene. Perché non c'è, secondo me non c'è un under 20 a cui piaccia il baccalà. Over 35 ti piace, poi ti diventa buono. No, nella cucina moderna siamo riusciti a svecchiarlo un po', difatti adesso si parla anche di un baccalà / stoccafisso, anche quello un po' più crudo, appena condito, quindi non è più realmente così, non è più il baccalà solito con la grande salsa alle spalle. Chef, ma tipo la Livornese. A Genova si mangia, no? Un stoccafisce o baccalà, certo. Che differenza c'è fra un stoccafisce o baccalà? Stoccafisso sono due, vabbè, ce lo può spiegare. Maestro, dica lei. Beh, lo stoccafisso è naturalmente quello che viene essiccato all'aria, il baccalà invece è quello che viene conservato nel sale e naturalmente sono due procedure diverse. Devo dire che nella storia servivano per mantenere il cibo. Ecco, io adesso non vorrei dire, ma insomma, io amo molto il Portogallo, amo molto Genova, città straordinaria. C'è una filosofia dietro a questo tipo di alimento, no? I vecchi pescatori genovesi segnati dal tempo. Sto esagerando, Bizzarri, sono le 9 di mattina. No, anzi, Genova è ancora un po'. Genova forse è la più portoghese delle città italiane. Nella lingua genovese ci sono tantissime parole che vengono dal portoghese, la stessa cadenza genovese che lei, Pardo, è uno dei pochi a saper imitare non essendo indigeno, però è assolutamente portoghese. Ma sai che la cucina cambia molto proprio per questo accento, questi nomi di piatti che piace a tutti utilizzare, perché fanno parte di una vecchia tradizione, quindi cambia solo per il modo con cui lo esprimiamo. Chiaro, non è mai un dettaglio. No, alla base calcola che c'è sempre un solo ingrediente che è miscelato a qualsiasi altra cosa, però è proprio la storia della parola che conta. Che gli dà gusto, gli dà sapore. Tu sei... come te la cavi a cucinare? Ma prego, benissimo. Prego. A Genova, infatti, il piatto più importante è la focaccia, che in genovese si dice figassa, e qua poi vi lascio... Fugassa in Francia, in Costa Azzurra. Fugassa in Francia. No, io vorrei capire se tu fai parte, perché io ho un grande amore per Genova, ci vado anche spesso, ma non riesco a capire come facciate la mattina, più o meno a quest'ora, alle 9:15, a fare colazione con la focaccia, magari pucciata nel caffè, che mi sembra una roba... appartiene a questo... Io penso che addirittura da bambino facevo colazione con la focaccia pucciata nel tè. Che sopra il tè rimane quella fatica un po' di olio che diventa buonissimo. Come il brodo con le chiazze del grasso. Non è meglio il cornetto, non è meglio il croissant col caffè. No, chiedo, scusa. Pier è molto moderno, però voglio dire, questo moderno, tocco salato. Tu sai, Pier, che ormai fa parte dell'attualità, il dolce e il salato, cosa ti viene in mente? Che tipologia di cucina ti viene in mente? Dolce, salato, morbido, croccante? Gelato al cioccolato, pop. Non è una canzone. Cucina pop, no, pensata a Pupo. Poi bisogna chiamarlo Pupo, magari prossima puntata. Quindi insomma, tu rivendichi questa cosa della focaccia pucciata. La focaccia la mattina per noi è un must, non è... Cioè, in molti bar adesso si può scegliere, ci sono le brioche, ma ci sono anche, perché è anche un'unità di misura, si chiama la slerfa di focaccia, che è proprio quella cosa un po' rettangolare allungata, si dice slerfa in genovese, proprio un'unità di misura precisa. Bella slerfa, una bella slerfa di focaccia, bella. Senti, quindi te la cavi malissimo con i fornelli, è ufficiale? Male. C'è un piatto bizzarri? C'è un piatto bizzarri, ma a me piacciono le varie varietà di pollo, per cui mi piace fare il pollo col curry, il pollo marinato, il pollo, però no, insomma, in Liguria c'è anche il finto pollo, finto coniglio, che viene fatto con un tonno in scatola, se mi posso permettere. Sì. Ma poi c'è anche il capomagro in Liguria, eh? C'è anche il cunigio, cioè voglio dire, il coniglio alla Ligure. No, la cucina ligure è molto varia, molto varia. Molto varia, con grandi accenti di terra legati proprio agli ortaggi, no? Agli ingredienti della terra e ovviamente la forza del mare con tutti questi suoi aspetti. Poi la fa da padrone sempre questo grande olio extravergine puro che loro hanno. Com'è l'olio ligure? Apprezzo. Io sono a me piace molto il Taggiasca, quello di oliva Taggiasca, questa oliva particolare. Devo dire che in questi ultimi anni non è andata molto bene per il tempo, però credo che sia un olio molto equilibrato, con poca acidità, quindi che dà un valore aggiunto al fruttato e dà un valore aggiunto, in questo caso i liguri lo usano molto per il pesce, quindi è una cosa molto delicata, e credo che sia l'olio più consono, più corretto per un piatto del genere. Bizzarri, le piacerebbe essere un baccalà, nel senso non è offensivo, voglio dire, cioè navigare, ma lo siamo tutti, navigare, perché penso che i genovesi, quelli trapiantati a Milano, anche se sono soltanto 130 chilometri di curve, fra l'altro a un certo punto abbastanza frenetiche, soprattutto la parte in discesa, perché non è parallela, insomma il pensiero del mare la colpisce anche quando... No, beh, io sono legatissimo a Genova, nel senso che ancora adesso, dopo quasi 25 anni, faccio avanti e indietro da Genova a Milano. Difficilmente mi fermo a Milano. Io quando posso torno a casa e ho il mio gozzo in porto, vado a farmi i miei giri e sono molto legato sia alla città che al mare, non potrei farne a meno. Un piatto bizzarro ligure che rappresenta secondo me la Liguria, il pesto corto, cosa ci dici, Luca? Cos'è il pesto corto? Il pesto lo ci arrivo, il pesto corto. Ragazzi, è proprio il pesto ligure, corto, l'hai fatto tu a una cena un mesetto fa. Vedo che segui. Attenzione alle differenze fondamentali che tra ligure e genovese. Sono proprio due popoli diversi. Ecco, i liguri sono dei francesi importanti in Liguria. I genovesi sono quelli della Repubblica di Genova e noi nella Repubblica abbiamo il pesto e basta. Ecco, il pesto è base, il pesto non è mai corto, ci abbiamo Toddy per fare una mediazione. Quando c'è poco pesto, che devi condire tre porzioni di pasta e ne hai per due, che quello corto che viene allungato con un po' di salsa pomodoro, questa è un po' la storia. Questa è storia, Va bene, vi fermo perché il momento è delicatissimo, ci fermiamo soltanto per un istante, traffico, e ripartiamo con Luca Bizzarri. Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Vi presenta... Mangia come parli. Allora, Mangia come parli, 349-238-6666 per i vostri SOS soldani WhatsApp, dopo ascolteremo quelli del giorno, segreteria telefonica 02-46-52-41-84, pagina Facebook di Mangia come parli, e abbiamo il pesto gate, cioè questo dissidio che dobbiamo risolvere. Che è sto pesto corto? Vai, Bizzarri, poi si incazza. No, non ne voglio neanche sentir parlare. Cos'è il pesto corto? Come ti sfido, Luca, una cosa, nel pesto gli ingredienti più importanti, dimmi tre ingredienti più importanti del pesto genovese in questo caso. Il basilico, poi i pinoli, poi l'olio, il sale, l'aglio e il pecorino. Se ti dicessi una parola del tipo non c'è niente di diverso. Come no? Ti sfido a questa cosa, un po' di burro, pensaci e poi ci risentiamo. Ragazzi, mamma mia, questa è storia, è scritto nella storia ligure e genovese. Che potrebbe uccidere per una frase del genere. Vabbè, insomma, dopo la matriciana gate di un paio di settimane fa, c'è anche il pesto gate. Bizzarri, la saluto, la vedrò anche domani. Poi vabbè, c'è una cosa che va in onda la sera, la nostra replica va in onda dopo quelli che, però insomma vi vediamo, vi seguiamo con piacere e stima. Lo faccio mangiare un po' perché è magro quell'uomo lì. Ma quello mi è vegetariano. È venuto anche al Do, Luca, prendo l'occasione per invitarla al Do nel mio ristorante e segue una buona dieta, io sono abbastanza d'accordo con quello che fa. Poi Bizzarri. Io da Oldani ci voglio andare assolutamente. Però questa, io adesso registro questa cosa e quando mi diranno che c'è da aspettare 8 mesi dirò lui. Ti aspetto con la ricetta del pesto corto e avrai il posto subito. Questa vale come ospitata. Perfetto, grazie a professor Bizzarri. Grazie, bocca al lupo a tutti gli amici di quelli che. Grazie Luca. C'è Paolo Marchi? Buongiorno Paolo Marchi, buongiorno. Come va? Buongiorno a voi. Paolo, buongiorno. Un giornalista sportivo che poi si occupa di cucina. Marina, proprio le due cose più belle nella vita, a parte la musica, è un'altra che non si può dire. Come va? No, lo sappiamo tutti qual è. No, appunto, i famosi viaggi. Dicevamo, qui c'è un dibattito sul pesto corto, però in realtà io vorrei riportarvi al baccalà, che è un po' il tema del giorno. Già, sì, è vero. Allora, per me il baccalà è una poesia assoluta. Cioè, quando una volta mi chiesero qual è il caso di condanna a morte, tanto in Italia non esiste la condanna a morte, per cui si può chiedere qual è il menù dell'ultima cena e così via, per me l'antipasto è il baccalà mantecato, sì, su crostoni di pane caldo. E non ho ancora cambiato idea. E così, anche perché nessuno mi vuole ancora uccidere. Anche l'esqueixada catalana, che è un'insalata di baccalà. No, vabbè, ma poi non finisci più. Non finisci più. Mi spiegate? Adesso andiamo a Vicenza fra poco, perché Vicenza è la capitale, è una delle capitali italiane del baccalà, ovviamente, ma insomma c'è una ricetta e c'è una confraternita importante. Mi spiegate definitivamente la differenza fra baccalà e stoccafisso, lo stocco, che cos'è il ragno? Questo è divertente, perché a seconda di dove ti trovi, la chiami in un modo o nell'altro. Cioè, i veneti chiamano stoccafisso quello che per noi è il baccalà sotto sale, mentre e viceversa, per cui il merluzzo essiccato al vento sulle lofote per noi è lo stoccafisso, che ha anche una certa logica, perché fisso vuol dire che è stato messo lì e essiccato, perché la leggenda ha citato le lofote in queste isole meravigliose del nord della Norvegia, dove fa abbastanza freddo, ve lo segnalo. Sì, però si sta sciogliendo tutto, per cui per pure lì anni, è per questo che nord, insomma, è per questo che i merluzzi a un certo punto hanno cominciato ad andare verso il sud, verso la Spagna, dove il mare era più caldo, e il metodo di conservazione è passato dall'essiccatura, quindi di quell'aria fredda e così importante, a un metodo di salagione, che poi è diventato baccalà, perché alla base di tutto c'è il merluzzo, che viene decapitato, eviscerato e poi appeso all'aria o messo sotto sale. Paolo, tu che sei un grande intenditore della nuova cucina mondiale, perché poi alla fine con Identità Golose, grazie a Identità Golose anche una parte del mio mestiere, dei cuochi, dei ristoranti italiani hanno preso un grande valore nel mondo. Cosa dici questa cosa di servire un pezzo di baccalà che viene dissalato in maniera perfetta e poi in alcuni casi servito con una fetta molto sottile, e devo dire non crudo perché è stato cotto con la salagione, però che abbia questa consistenza cruda? No, a me piace pazzescamente, perché se uno va a vedere un po' la storia della cucina, tantissimi piatti erano mangiati per la povertà. Cioè, quando si dice in Piemonte, in Lombardia non c'era il pesce una volta, era baccalà o acciughe, questo per dire, non essendoci le coste e tutto, però magari era un baccalà praticamente dei cartoni scarsamente di qualità, rinvenuti male e così via. Oggi che abbiamo altre tecniche di conservazione e tutto, anche cuoche che ragionano di più, è chiaro che quel pesce lì lo puoi usare meglio. E quando trovi un baccalà di quelli legnosi, duri così, dovresti impiccare il cuoco, cioè non esiste più quel genere di cucina lì. Per cui sempre di più lo mangi, fra virgolette, crudo o marinato, insomma, tenero, fresco. Assolutamente. Assolutamente. Io vi fermo un attimo, perché voglio dare il benvenuto ad Antonio Chemmello, che è oltre che lo chef del ristorante da Palmerino di Sandrigo, è presidente della confraternita del baccalà alla Vicentina. È vero, Chemmello? Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Non mi dia titoli che non sono miei. Non sono presidente della confraternita. No. Sono presidente del gruppo ristoratori della confraternita. Ah, scusate. Della confraternita. No, è importante, perché poi guarda che la confraternita, se i confraterni si incalzano, poi sono... Quindi no, è giusto, mettiamo i puntini sulle i, ci mancherebbe altro. Fra un attimo parliamo della meraviglia del baccalà, ovviamente alla Vicentina. Io però poi ho un momento delicato verso fine puntata, e cioè dovrò ripetere la ricetta dello chef, che per me oggi ha pensato a... Io naturalmente sto nello stile un po' più moderno, dove utilizzerei un baccalà, un merluzzo dissalato. Ok, merluzzo quindi dissalato. Attenzione, sì, al fatto che si dissali in maniera perfetta. Sì. Come si dissala il merluzzo, scusa? Mettendolo in acqua fredda, sì. Io direi anche acqua e ghiaccio prima per una giornata e poi sotto un po' di acqua corrente. È una ricetta facile, un giorno acqua e ghiaccio. Calcola che non ti faccio usare lo stoccafisso, che prenderebbe altrimenti 10 ore. Ti ringrazio, sei squisito. Allora, poi come lo facciamo questo baccalà? Io farei, visto che siamo nel periodo, una piccola vellutata e leggera di zucca, quindi solo una zucca cotta con acqua, poi frullata, e darei un tocco, se vuoi, un po' più internazionale, con un po' di succo leggero di zenzero, ma poca roba, e un velo di olio d'oliva. Ok, il caffè, ma avevi detto volevi mettere e poi il caffè alla fine del piatto, alla fine del pranzo. Mi raccomando, sul piatto. Il caffè va tostato, naturalmente si sceglie una giusta selezione, e poi grattugiato al momento sopra al pesce, leggero leggero, che dia un leggero profumo, quindi solido, cioè il caffè, il chicco tostato, sai, tu prendi quel macinapepe, metti i chicchi tostati, okay, bene, e poi macinati su, ma deve essere proprio un velo, che caffè, un tocco di zenzero leggero e la zucca credo sia l'abbinamento perfetto. Allora, questa poi dopo cercherò di almeno di ripeterla per focalizzarla meglio anche per gli amici da casa. E invece che cosa rappresenta per Vicenza il baccalà? E come ve la siete inventati questa confraternita, caro? Allora, Camello, diciamo che vi ascoltavo fino adesso, tutto interessantissimo, siete molto ben informati, quindi complimenti a voi. Ecco, noi in Veneto chiamiamo il baccalà alla vicentina il baccalà mantecato alla veneziana, però usiamo lo stoccafisso. Okay. Noi chiamiamo lo stoccafisso baccalà, appunto, mentre il baccalà noi soprattutto in Veneto lo chiamiamo Bertagnin. Come Bertagnin? Il Bertagnin. Tanto il Bertagnin è arrivato. Bello. Bertagnin. Comunque è un pesce meraviglioso, e sentivo anche prima giustamente che ha sfamato per generazioni, perché anche noi non solo in Lombardia e in Piemonte, ma anche in Veneto, qui a parte le coste, ma nell'entroterra tipo Vicenza, non c'era il pesce fresco, e quindi lo stoccafisso andava bene per la sua conservazione. Ecco, no, una cosa bellissima devo dire della confraternita che ho letto, mi confermate se è vera, ma penso di sì, nasce nel 1987, voi fate anche tutta una serie di iniziative culturali con i norvegesi, cioè è diventata anche un'occasione proprio di cultura veramente gastronomica. Assolutamente sì, la confraternita nasce 30 anni fa, proprio quest'anno, proprio questi giorni stiamo festeggiando i 30 anni di fondazione. Perché? Perché il baccalà alla vicentina, uno dei tantissimi piatti della tradizione non solo veneta ma anche gli altri piatti, lentamente stava scomparendo non solo dai ristoranti, dalle trattorie, ma anche dalle famiglie, un po' per la complessità della ricetta, perché la ricetta non è difficile, è laboriosa, perché bisogna battere lo stoccafisso, metterlo per 2 giorni in acqua, pulirlo e poi 4 ore di cottura lenta. Quindi per non pensare al grande costo di questo piatto, perché poi c'è una volta sembra meno, però anche qua stiamo discutendo ultimamente, perché dicono che il baccalà è sempre stato il piatto dei poveri, però adesso ragionandoci abbiamo sempre detto baccalà, non diciamo mica baccalà la vicentina componente, ma si è sempre detto puenta e baccalà. Quindi, perché faceva da piatto unico. Ma oltretutto, secondo me, ti davano una montagna di polenta e poi ti mettevano un po' di baccalà, te lo facevano vedere, e ci metteva l'olio, perché nella ricetta ci va abbastanza olio, e quindi condiva la polenta, anche per questo molto probabilmente che era il piatto dei poveri, fantastico, e famava famiglie intere. Fantastico questo piatto. Posso chiedere a Paolo, perché il baccalà in Portogallo è soprannominato amico fedele, con 365 ricette all'anno, e insomma ce n'è una al giorno. In Italia ci sono una serie di città che si legano, di zone che si legano, penso a Napoli dove il baccalà, in molte parti d'Italia il baccalà è quello fritto, no? Quello che si mangia, i filetti di baccalà o le polpette di baccalà. E poi però invece c'è Napoli, c'è Livorno, c'è una cultura Ancona, del baccalà in Sicilia, c'è Ancona. Che verde mi pare, ma una cosa volevo chiedere e poi devo salutare per forza. No, a me mi chiedo sempre, perché è chiaro che sul mare c'è Venezia, per cui il pesce come le spezie, come tutto arriverà a prima Venezia. Ma i veneziani sono incapaci di cucinare, perché se tutti portano, fra virgolette, con tutto il rispetto per i dogi, eccetera, eccetera, no? Però se il baccalà è diventato famoso grazie a Vicenza, vuol dire che a Venezia non sapevano cosa fare, se non erano troppo ricchi. No, oppure erano troppo forse, ricchi. Forse erano troppo ricchi, forse erano troppo ricchi. Molto probabilmente noi qui vicentini, sai che c'è il vecchio detto vicentini magnagatti, no? Sì. Eravamo un po' stanchi di gatti quindi abbiamo visto un qualcosa di diverso. No, adesso sto scherzando, però guarda che se tu ci possiamo dare del tu, no, scusa, assolutamente, se tu vedi guarda le città marinare, Venezia, Ancona, Messina, Napoli, Livorno, cioè tutte città che hanno il mare, pesce fresco, Eppure uno dei piatti principi, se non in assoluto, come il baccalà alla veneziana, il baccalà alla anconettana, il baccalà alla messinese, sono sugosi. Sono, sì, ma sono anche piatti ormai della tradizione, certo. Quindi lo sto capendo. No, devo dire, vabbè, comunque, scusate, siccome ha chiamato Brugnaro, il sindaco di Venezia, io la chiuderei qui. Diciamo che a Venezia sanno cucinare, però evidentemente il baccalà non gli piace tanto. Hanno... Questo è strano, insomma. Ragazzi, mi scuso, ma devo... Grazie. No, non ti scusi, anzi, organizziamo la cena a base di baccalà. Paolo, per un altro tema cose. Molto importante. Grazie, vabbè. Paolo. E grazie anche ad Antonio Chemello, viva la confraternita del baccalà. Vi ricordo l'Espresso Oldani fra poco con i vostri chiarimenti della settimana, con tutte le risposte dello chef. Vi ricordo ovviamente che potete lasciarci messaggi vocali al 349-238-6666 oppure sulla segreteria allo 0246-524184. C'è anche la pagina Facebook, c'è la mail mangiacomeparli@radio24.it. E poi fra poco ci sarà anche l'interrogazione. Cercherò in qualche modo di ricordarmi come si fa questo baccalà al vapore con salsa alla zucca, zenzero e caffè all'orientale. Mangia come parli, mangia come parli. E allora, dopo il pesto gate con Luca Bizzarri, col pesto corto, con lo stoccafisso, il baccalà, Antonio Chemello della confraternita del baccalà alla vicentina, Paolo Marchi e ovviamente con i consigli dello chef Oldani, diamo il benvenuto a un grande attore e credo anche a un buon gustaio, Beppe Fiorello. Benvenuto, come stai? Ciao a tutti. Ciao, bene, Beppe. bene, ciao, grande. Com'è il tuo rapporto col cibo? Con Oldani è molto buono il rapporto, vero? Con Oldani è un rapporto nuovo, fresco, ci conosciamo da poco, ma è come se, insomma, ci frequentassimo da anni. Ci siamo capiti con un po' di occhiate a Venezia, ci siamo detti due cose sui gusti personali. Lui mi ha raccontato della cucina in una maniera incredibile e quindi ho scoperto una passione bestiale, ci siamo parlati per un po'. Nel mio posto di Venezia, dove ho il ristorante, nella Man Resort. Ah, capito, roba seria, mica siamo qui a pettinare le bambole, come diciamo noi catanesi. No, io sono romano, ma sei mamoriano o monfiano? Questa è una curiosità che ho. Sei un catanese doc, no? Nato a Catania, poi cresciuto ad Augusta, nella provincia di Siracusa, i genitori della provincia di Messina, e quindi insomma di una bella parte della Sicilia orientale. C'è del baccalà. Il baccalà alla messinese, ad esempio, com'è? Famoso baccalà alla messinese. Ti piace? Molto, c'è chi lo fa in un modo, c'è chi lo fa in un altro. Io ricordo mia madre che lo faceva in padella, con molti odori, con i capperi, con le olive, il pomodoro e tutti quei profumi mediterranei lì, e poi andava cuocendo lentamente con molta calma, e c'era questa bella fetta di pesce gustoso, succoso, bello, buonissimo, che mi riporta indietro negli anni e nella vita. Vedi la qualità degli attori, dei narratori, che mi fanno venire fame. Qual è il segreto, chef, per cucinare il baccalà con le olive, con i capperi? Il segreto sta naturalmente nella cottura, che deve essere molto molto lenta, quindi deve sobbollire appena appena, e poi la cosa più importante è di fare attenzione a recuperare bene la salsa, perché il pesce, cuocendo per, credo, quanto tempo, Beppe, lo cuocevate in famiglia? 20 il mezz'ora, baccalà, un'ora? Sì, ma credo non più di una quarantina di minuti, insomma, ecco, che per lasciarlo un po' croccante, non troppo moscio. Esatto, ma però aspetta, il baccalà utilizzavate lo stocco, utilizzavate quello in salagione? Penso, se non ricordo male, lo stocco. Lo dai, stocco, allora i 45 minuti ci stanno, che è quello buoni, secco. Buoni, esatto. anche qualche minuto in più. Io invece personalmente oggi mi diverto a cucinare il baccalà, che è un po' più semplice, un po' più rapido, e mi diverto a cucinarlo in una versione molto semplice, molto basica, vapore, con un filo d'olio a crudo, con un po' di limone, ci gratto un po' di scorzetta di limone, e una volta ho fatto un esperimento strano, siccome sono pazzo dalla bottarga, gli ho spolverato sopra un po' di bottarga, ma leggera. Sto godendo. Quindi mare che richiama mare, però la bottarga deve essere grattugiata appena appena, non a fette, giusto? E muggine o tonno? Il tonno io non lo grattugio, sai, è pastoso, quindi diventa una poltiglia. Una fetta sottile. A scagliette. Fantastico. Quindi vedi la semplicità nella cucina, il prodotto del territorio. Stamattina ho fatto colazione con avocado e alici, chef, come vado? Bene? Avocado e alici, direi sì, è un pesce azzurro, cosa, però ha un senso. Avocado e alici è una cosa strepitosa. Ha un senso perché pesce, l'alice ha poco grasso dentro, quindi il gusto del grasso arriva dall'avocado, quindi credo ci possa stare. Non sono neanche le 10 del mattino, chi ci ascolta in replica se ne farà una ragione. Abbiamo sentito che Bizzarri ha fatto colazione con la figassa dentro al tè, con le chiazze, gli occhi di olio nel tè. E qui abbiamo avocado e alici, vabbè ragazzi. E io con avocado e alici. Siete straordinari. C'è un film. Sentiamo un pezzettino, c'è un film. Oh, guarda che ti chiamo, non sparire, eh? Te faccio vedere io. Se io sparisco, che non torno più, che non mi trovano, tu che fai? Tu quei coglioni. Se lo cercano tutti, poi ne parlano in giornale. Se ne parlano in giornale, poi ne parla la televisione. Se ne parla la televisione, ne parla la radio. Questa è la svolta. Ma non è che ti hanno trascinato nel tunnel della droga? Buonasera a tutti quanti voi e benvenuti ad una nuova puntata di Scomparsi. Mio figlio, tanto bravo. Che cazzo sei pettinato? Ma pare mio One House. Ha visto, ma chi mangia di più, tu o Favino? Cioè, perché poi sì, ma l'avete saputo anche voi, noi abbiamo avuto una notizia bellissima, il film sta riscuotendo veramente un grande affetto in tutte le sale, non so se l'avete saputo, a noi ci è arrivata questa notizia e siamo molto felici. Assolutamente. Quindi, noi siamo felici. Chi sta ascoltando, se vuole farsi una serata tranquilla, semplice, fatta di qualche risata, il film è già in sala da qualche giorno. Assolutamente. È bello da vedere il film, è bello anche da girare, no? C'è una vita molto, sul molto, set. Molto, quante sì, scene sì, ti sì. sei fatto con Favino? Che... Ma è un film davanti a me, pensa, il regista è un film da 118 scene, che è una cosa abbastanza rara, sono tante 118 scene, c'è un ritmo molto bello, è bello farlo, ci siamo molto divertiti, e poi si dice sempre così, non accade spesso, ma questa volta ci siamo molto divertiti e credo si veda nel film. 118 scene, 118 cene immagino, ma Favino che mangia? 118 cene, Favino esatto. Mangia romano, Favino mangia cacio e pepe, no? Sì, è Francesco, una grande forchetta, anche lui è di origine pugliese, sì, è così, lui è anche un buon gustaio di cacio e pepe, di cucina tradizionale romana, insomma. Ma non c'è mai nessuno che dice buon gustaio di un buon risotto alla milanese. Non è vero, buon risotto alla milanese, abbiamo fatto la puntata precedente sul riso con Gerry Scotti, voglio dire, buonissimo. Io con risotto alla milanese lo lascio da parte qualche giorno e ci faccio l'arancini, scusi chef. No, perfetto, e a Milano ci facevamo il riso assalto, a questo punto appena verrai Scusate, appena verrai Aldo ti farò assaggiare la nuova versione dello zafferano. Mi fanno pensare a una delle cose più tradizionali del baccalà, nel senso che il baccalà ovviamente ha delle eccellenze a Vicenza, a Livorno, in Sicilia, ad Ancona, però a Napoli, però è anche spesso il baccalà fritto che troviamo. C'è un segreto per cucinare i filetti di baccalà? Il filetto di baccalà è naturalmente un pesce, quindi ha un po' di acqua all'interno, la frittura pertanto deve essere perfetta. Quella che io suggerisco è quella con un po' di acqua fredda, un po' di farina, possibilmente di grano duro, pochissimo sale e lasciata riposare per una mezz'ora, e poi viene intinto il pezzo di baccalà, naturalmente ben dissalato, e poi fritto. Perché? Perché con questa tipologia di pastella e di farina si forma quel croccante che tutti vorremmo dal fritto. Quindi si stacca leggermente dal pesce, c'è questa patina sottile di farina che diventa croccante, quindi c'è il massimo della bontà. Molte volte il baccalà, quando viene mangiato, è fritto, ma è fritto, non si sente, solo perché c'è questa capacità di buttarlo nell'olio, ma non si sente il croccante, che poi è il segreto del buon fritto. È il segreto di un fritto di grande livello. Il tempo, questo è un concetto quasi filosofico, caro Beppe, no? Ci vuole tempo per fare le cose, come nella cottura del baccalà alla messinese di tua mamma, no? Sì, ci vuole tempo, pazienza, passione, stare lì e poi dedicarsi, lasciarsi andare, assaggiare, è tutto... e poi aspettare qualcuno che insieme a te si goda questo, la convivialità, questo che è la cosa più bella. Esatto. Vi andiamo a vedere al cinema, e chi m'ha visto con Favino, ce lo saluti il professor Favino, e con la regia di Alessandro Pondi, complimenti, perché insomma è già un successo. Me lo saluti Pondi, me lo saluti, gli insegni Alessandro Pondi, va bene, e basta, grazie allora dell'ospitalità, vi aspetto al cinema. Va bene, andiamo al cinema sicuramente, e poi magari a cena a farci anche due spaghi in grande serenità col maestro Oldani. Grazie a Beppe Fiorello. Beh, insomma, ci sono sono. Il baccalà è un mondo articolato. Mi dai una ricetta di un baccalà crudo? Sai che mi viene in mente una cosa? Posso così, visto che Beppe diceva dell'arancino con il riso, io ti posso anche dire che un po' di questo riso, piccole proporzioni, mi raccomando, piccole proporzioni di arancini piccoli, possono essere serviti con un pezzettino di baccalà, come diceva prima Beppe, quindi cotto al vapore, un velo leggero di olio e tre arancini. Baccalà potrebbe essere un piatto unico. Io questa eschisciata catalana che mi fa impazzire. Baccalà crudo, ti dico, è molto interessante perché è la salagione che gli dà la consistenza giusta, molto carnosa, e devo dire che fatto a piccoli pezzi ti ricorda quasi come la masticazione di un pezzo di carne, che può essere un pezzo di manzo. Invece ha la consistenza, assolutamente sì. Quindi quello che importa nel baccalà crudo così è proprio questa consistenza carnosa. Una volta carnosa. Il baccalà era un pesce povero, o sbaglio? Una volta. No, sai, ogni cosa era povera, ogni volta, insomma, tanti più, questo è un pesce azzurro poi, quindi tanto di più. Adesso col fatto di avere aumentato il tipo di salagione, il tipo di aria anche per conservare o per mettere lo stocco ad essiccare, si sono raffinati tutti questi metodi, evidentemente sono diventati piatti per tutti. Ma scusa, se io ti dico che a me il baccalà piace molto di più del branzino o dell'orata, sto bestemmiando? Sì, ci può stare anche perché sto bestemmiando. Può stare che questa tua affermazione sia corretta, perché in tante situazioni il branzino è, anche se di mare, molte volte è allevato, quindi o peschi un bel branzino di Lenza o se no magari un bel baccalà. Anche un nasello, ti direi, giusto per provocarti. Un nasello, amico e collega nasello, il signor nasello, sì. Okay. Anche il nasello che è un pesce azzurro, la famiglia è quella evidentemente dei merluzzi, ed è un piatto che in Liguria va molto. E rimane il fatto che fra poco ci sarà l'interrogazione, proverò a cucinare, sia pure soltanto in teoria, ma almeno vediamo se ho capito, il baccalà al vapore con salsa di zucca e caffè con zenzero. Vi ricordo 349-238-6666 per i vostri messaggi vocali, e fra poco arriva il momento più atteso, quello dell'Extra Soldani, con i messaggi dei nostri ascoltatori che sono arrivati in settimana anche sulla segreteria telefonica 02 46 52 41 84. Che c'è il traffico? Baccalà. Traffico dei baccalà, questo. Assenti, ma a loro modo presenti. Impegnatissimi, ma che poi si impegnano ad esserci. Attenti, ma tanto distratti. Volenterosi, ma un po' impacciati. Autorevoli, ma anche giocherelloni. Federico, guarda che c'è una parola che riassume tutto questo. È padri. Ed è proprio di padri e ai padri che parleremo, per dare qualità al tempo passato con i figli, quindi anche al nostro. Padri casalinghi e padri incasinati, padri modello e padri single, padri separati, padri indaffarati, padri in pace con loro stessi, perché non ci sono né padri perfetti e né padri imperfetti. Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia, la domenica alle 11 su Radio 24. Matteo, e le mamme? Beh, per fortuna che ci sono. Studiare, fare stage, lavorare, fare impresa all'estero. Una generazione mobile. Il mondo non ha più barriere per i giovani. Radio 24 vi dice come fare per preparare la valigia e partire. Informazioni pratiche, dritte, testimonianze dirette, offerte di lavoro e siti internet di riferimento oltre confine. Un manuale utile per cogliere le enormi opportunità di studio e professionali in questo piccolo mondo interconnesso, ovunque vogliate andare. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'espatrio, naturalmente qui su Radio 24. Mangia come parli, mangia come parli. Bentornati, bentornati a Mangia come parli, siamo nel momento clou della trasmissione, il momento dell'SOS Oldani. SOS Oldani. Vi ricordo i messaggi vocali 349-238-6666. Sentiamo Gianluca da Novara. A me piace molto il cocco. Come posso cucinarlo in modo originale? Il cocco. Adesso pure il cocco vuole cucinare. Chef. Cocco, qui io farei una cosa diversa. Prenderei il cocco grattugiato. Lo metterei in infusione per una notte con dell'acqua fredda. Ok. E poi con un'etamina, che è uno straccio da cucina in gergo, viene messo in questa etamina, pressato, e si ottiene un latte di cocco, che è un'acqua di cocco. Quest'acqua di cocco poi ci puoi fare una bavarese, puoi fare un gelato, puoi fare una salsa per una torta, puoi metterlo evidentemente anche in una torta. Vabbè, se ne posso fisticati per me. Pina da Napoli. Buongiorno chef, sono Pina da Napoli. Le volevo chiedere, lei nella pasta e fagioli preferisce l'aglio o ci mette la cipolla? Attenzione, queste sono le domande che posso. Io direi che potrei mangiarla perché mi piace con l'aglio e la cipolla, però se dovessi optare per dare un buon consiglio, metterei un goccio di olio d'oliva, i fagioli, dell'acqua, qualche foglia d'alloro e farei cuocere la base della zuppa, della zuppa di fagioli in questa maniera. Filtrerei tutto e poi un po' di pasta. Poi un giorno... Che può essere la pasta, quella napoletana, quella miscelata, le varie forme che danno consistenze diverse. Tipo gli zidi spezzati, quelli che fanno con la genovese, straordinario. La pasta provo, la vedo Velo De Luca, napoletano doc che ha la lacrimuccia. Mamma mia, passa la e provo. Non mi fai pensare. Valentina un tocco di menta, Valentina un tocco di menta. Ma sì, ma pure la menta, Valentina. Buongiorno, io ho notato che quando cucino il polpo le carni tendono a restare sempre un po' durette. Vorrei sapere dallo chef Oldani se esistono delle tecniche di cottura che permettano di rendere il polpo più morbido. Grazie. No, credo qui è veloce la risposta, quindi si deve con una forchetta, con un coltello vedere il tempo e soprattutto capire se è una cottura che è desiderata, altrimenti si continua cuocendo in acqua. Il polpo deve essere morbido? Cioè quanto deve essere? Perché ci sono varie scuole di pensiero. Ci sono scuole di pensiero, ti dico, in Italia la napoletana è quella dove vengono servite anche le ventose, quindi viene una cottura molto carnosa. Certo. Tipo un po' tipo quella giapponese. Il giapponese è ancora un po' più crudo, però sempre sul sistema del cotto polpo. Invece poi c'è una parte di nord dove il polpo viene cotto e io devo dire che rabbrividisco quando vedo i polpi belli bianchi, puliti, tentacoli puliti, senza più una ventosa. Ma che come si fa? Praticamente perso tutto nell'acqua di cottura. Ma è una cosa assurda. Ma, è come una si cosa permette? Ma anche nei confronti del polpo. Perché perdono le consistenze. Giulia da Bari. Salve chef, vorrei imparare la tecnica della cucina alla cieca. Mi dà qualche dritta? Che è la cucina alla, alla cieca, io se ho ben capito, con gli occhi bendati, giusto? Più o meno la mia ricetta. Quindi ho provato una volta, giusto per aderire a una causa molto importante, devo dire che non è facile. Ma certo, devo dire che non è facile, quindi bisogna conoscere molto bene l'ambiente in cui si opera. Potrei sfidarti, tu bendato, io no. Va bene, è arrivato il momento dell'interrogazione, della ricetta. E allora sono un po' teso, anche perché la ricetta di oggi non è semplicissima, è abbastanza complicata, no? Quindi ora sarai ancora un po' più teso di quello che sei adesso. C'è una piccola sorpresa per te, una mia amica e collega pasticcera. Oddio, chi è? Simona! Ah, eccola là. Pronto? Pronto? Simona, buongiorno. Ciao, buongiorno. Riconosco questa voce. Allora, Simona è mia moglie, lo dico per chi non lo sapesse, ed è bravissima a cucinare, ero magro prima di conoscerla. Va bene, adesso, allora, amore, visto che siamo ti dirò come si cucina il baccalà al vapore con salsa alla zucca e caffè orientale, con un'aggiunta di zenzero. È buono, sì, ma adesso senti qua. Poi Simona ci darà un consiglio su una ricetta. Volete, che lei fa, giusto, volete, dolce magari. Sì, però adesso è il mio momento, scusate. Già sono teso. Lasciamolo, Simona. Allora, il merluzzo dissalato. Come si dissala il merluzzo? Lo teniamo fra i nostri 50 metri quadri praticamente per una notte con acqua e ghiaccio, giusto? Esatto. Già una notte per dissalare il merluzzo mi sembra una follia. Comunque, poi facciamo questa vellutata a base di zucca frullata. Ci aggiungiamo un po' di succo di zenzero con olio extravergine d'oliva. Potremmo stare sulla tradizione ligure di un bell'olio taggiasco, così è contento il nostro amico Bizzarri. E poi che faccio? Prendo del caffè, proprio il caffè in purezza, grani. In grani, tostato, e lo sgrattugio sopra. Con un macinapepe. Con macinapepe, ovviamente. Una polverina leggera che ti dà quell'aroma. Tu sai, io il caffè non lo sfioro, come le donne, non si sfiorano neanche con un fiore. Il macinapepe, il caffè non lo sfioro. Vabbè, hai capito. La delicatezza del profumo, questo. Come sono andato? Devi farlo tutto tu, da solo? No, puoi cucinare tu. Puoi cucinare tu. Va bene, senti, hai una idea? Oggi abbiamo parlato di Genova, di Portogallo. Io devo dire che mi ha fatto fare, per esempio, un'ora e mezza di fila. Dov'è che eravamo? Eravamo a Lisbona. Eri soddisfatto poi alla fine? No, ero molto soddisfatto perché avevo fatto un'ora e mezza di fila. A Lisbona c'è questo luogo meraviglioso che fa i pastéis de Belém con la M, non Belém. Che è un dolce fantastico. Sì, io ho fatto un'ora e mezza di fila per Belém con la M, sia ben chiaro. E devo dire però ne vale la pena perché c'è il pastéis de nata. Cos'è sto pastéis de nata? Ma in realtà è il dolce tipico portoghese che viene offerto con il caffè. Sì. Ed è una tartelletta di sfoglia con un cuore di crema. E diciamo che la differenza dalla nostra crema pasticcera classica è il fatto che si usa la panna al posto del latte, cioè una parte di panna. E poi è cotta, non è una mousse. È cotta, viene tutto cotto. E fra l'altro io lo cuocio a una temperatura molto alta perché così la sfoglia rimane anche bella croccante. Usi sfoglia, Simona, o usi una pasta frolla magari con burro e zucchero semolato? La sfoglia, usa la sfoglia. Devo dire che è la base della ricetta. Io l'ho assaggiata anche con una pasta sablé molto fine, non sta male. Ti direi di provare e anziché farlo attendere un'ora fuori dal negozio glielo prepari per questa sera. Bene, ragazzi, la pasta sablé è straordinaria. Tu metti la ricetta sul blog delle torte di Simona, ovviamente mettila, ecco, vai, corri subito a metterla e non è che fra un quarto d'ora poi la gente va lì e non trova la ricetta. Comunque quindi il segreto per renderla più, cioè tu la fai con la panna, non con latte? Sì, io la faccio con la panna, cioè nel dubbio, dovendo sottopormi a questa cosa, tu scegli sempre la cosa più ricca, diciamo. Esatto, però la tortelletta è piccola perché è un boccone, quindi me la mangio, io mangio quattro. Cioè, la tortelletta è piccola, ma ne mangio quattro. Grazie alla signorina Galimberti. Grazie, ci vediamo a casa. Comincia a mettere acqua e ghiaccio sul baccalà. E adesso è il momento della canzone. Oggi abbiamo parlato molto di Genova. Ho scelto un classico di Ivano Fossati. C'è una canzone bellissima, si chiama Lusitania, dedicata al Portogallo. Però ho scelto Navigante. Abbiamo girato attorno al tema di questo straordinario pesce che si fa agli oceani e che poi finisce sulle nostre tavole. E questa è una canzone che racconta la vita in tutte le sue peripezie, le gioie, i dolori. È la storia di due naviganti che, temprati dalle vicende della vita, come dei ciclisti nella salita sul manubrio, si guardano e si vogliono bene. Naviganti, Ivano Fossati. Siamo stati naviganti con l'acqua alla gola e in tutto questo bell'andare quello che ci consola è che siamo stati lontani e siamo stati anche bene e siamo stati vicini e siamo stati insieme. Siamo stati contadini noi due senza conoscere la terra e piccoli soldati senza amare la guerra. Ci hanno mandati lontano senza spiegarci bene e siamo stati male, ma siamo ancora insieme. Conoscitori della notte senza averne paura, il grande Ivano Fossati, è veramente tutto si combina, come direbbe un altro grande come Francesco De Gregori. La cucina, la cultura, la musica, le emozioni, i pastéis di mia moglie, tutto si mette insieme. Comunque vi ricordiamo il baccalà al vapore con salsa, zucca e caffè orientale, la nostra ricetta del giorno. Vado adesso subito a dissalare il merluzzo, che ormai è l'obiettivo per me della... Sì, vabbè, faccio anche Atalanta-Juve domani sera, anzi chi ci ascolterà in replica ovviamente sarà pochi minuti dal calcio d'inizio, ma l'obiettivo del weekend, oltre alla telecronaca, sarà di dissalare questo merluzzo, col quale io parlerò. Fondamentale per avere poi un buon piatto. Troveremo un accordo, io e il merluzzo, per dissalarlo insieme. Grazie a tutti quelli che sono intervenuti, grazie a Peppe Fiorello, a Luca Bizzarri, ovviamente ad Antonio Chemello della Confraternita del Baccalà, al grande Paolo Marchi e anche a Simona, sì, che mi sta simpatica. E vi ricordo il numero dell'SS Soldani per i vostri messaggi, continuate a mandarli, 349-238-6666, la mail mangia come parli radio24.it, la nostra pagina Facebook. Grazie anche dei messaggi meravigliosi che ci avete mandato in questi giorni, perché insomma ci fa particolarmente piacere, no? Grazie Pier, e alla prossima. Torniamo sabato, sappiamo con che cosa? Non lo diciamo, lo sappiamo, ma non lo diciamo. Ci sarà un altro grande alimento, una roba buona. Ciao. Grazie, ciao. Nicoletta Carbone, diventerò la vostra salutare ossessione quotidiana, 7 giorni su 7. Dal lunedì al venerdì una rassegna puntuale delle notizie che arrivano dalla ricerca, commentata dagli esperti più autorevoli. E per chi vuole andare oltre la notizia, sul nostro sito ogni giorno approfondimenti, interviste, le risposte degli esperti, video e tutorial. Ma ci sarò anche nel weekend. Al sabato vi racconterò tutto quello che dovete fare e sapere per stare bene e per sentirvi meglio, solo quello che serve. E la domenica caccia alle bufale per riportare la verità nel piatto. La salute, il benessere e il cibo sano con Nicoletta Carbone, dal lunedì alla domenica alle 12 su Radio 24.